versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di 24, questo venerdì 5 settembre, sono le 16.37 e vado subito al punto della giornata, così, visto che siamo partiti in ritardo, presento il nostro ospite e soprattutto chiamo le vostre telefonate, perché oggi è un tema non tecnico ma pieno di significato secondo me. Di cosa voglio parlare? Due giorni fa, nell'intervista del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al Sole 24 Ore, tra le diverse cose, una mi ha colpito molto, naturalmente non ha colpito solo me, ha colpito molti osservatori, cioè una risposta del Presidente del Consiglio all'intervistatore, era il direttore del Sole, Roberto Napoletano, nella quale il Presidente del Consiglio dava una versione di quali siano le riforme da fare oppure no, non entrando nel merito, poi lo faceva dopo nel corso dell'intervista, proprio sulla filosofia, per così dire, delle riforme necessarie. L'intervistatore, il giornalista, lo incalzava dicendo lei prende molto tempo, affastella molte cose, però qui c'è bisogno di interventi seri e impopolari, diceva il direttore del Sole. E a un certo punto su questo il Presidente del Consiglio gli dice: guardi, io non sono per niente d'accordo con quello che dice, perché questa cosa dell'impopolarità delle riforme esprime una concezione un po' octroyée, diceva proprio così, della democrazia. Le costituzioni octroyée erano quelle che nella prima metà dell'Ottocento erano concesse per benigna generosità del sovrano ai sudditi. E diceva il Presidente del Consiglio: lei ha un'idea che dall'alto c'è chi sa tutto e quindi bisogna fare gli interventi che spiacciano all'opinione pubblica, al popolo, e quindi ecco la necessità di riforme impopolari. Io non credo, ci sono le riforme da fare, sono in molti casi quelle che piacciono al popolo, per esempio gli 80 euro. E su questo Napoletano diceva: no, ma guardi che però per incidere nella spesa pubblica e diminuire le imposte, e lei lo deve fare per 20 miliardi l'anno prossimo, anzi 20 miliardi è la cifra confermata da Renzi in quell'intervista, lei dovrà fare interventi che la politica rinvia, perché si toccano interessi mica solo dei dipendenti pubblici, ma interessi anche privati, trasferimenti alle imprese, eccetera eccetera eccetera. E però la risposta del Presidente del Consiglio era stata questa: le riforme popolari. Allora poi l'indomani un editorialista sulla Stampa, Luca Ricolfi, ha scritto un editoriale secondo me molto bello, dicendo: qui ci sono due versioni del renzismo, una quella delle riforme popolari e un'altra che nello stesso giorno il sindaco di Firenze, Nardella, renzianissimo, diceva: ma no, noi facciamo anche le riforme impopolari, e come? Bisognerà vedere quale di questi due renzismi, quello popolare, anzi populista, diceva Luca Ricolfi, o quello impopolare e duro prevarrà. E Ricolfi diceva: io temo che prevalga la prima cosa. Allora io vi invito a telefonare per dirci come la pensate voi. Ma Renzi si sta rivelando uno, al di là della rottura con la vecchia politica, che ha un po' i difetti della vecchia politica nel dire che vuole fare riforme solo popolari, purtroppo non ne farà molte che sono necessarie, oppure secondo voi invece le farà? E come? Faccio un ultimo esempio prima di dare la parola all'ospite, di aspettare le vostre chiamate all'800240024 349-238-6666 per gli sms. I giornali sono giustamente pieni della protesta durissima delle forze dell'ordine, che sono arrivate per la prima volta nella storia della Repubblica a dire: noi scendiamo in sciopero, la polizia, i carabinieri, anche l'esercito, a dire la verità, ecco, questo io non l'avevo capito ieri, ma anche l'esercito, scendiamo in sciopero perché il governo, la Madia, ci ha detto che non blocca, che continua a bloccare la progressione degli aumenti retributivi, cosa che va avanti oramai da 4 anni. Quindi l'anno prossimo sarebbe il quinto. A me è subito venuto in mente che a furia di non fare le riforme impopolari, ecco cosa succede. Giarda nel 2012, Giarda, il primo che si mise a fare la spending review, avanzò proposte non per tagliare le forze dell'ordine, ma per efficientarla, visto che ne abbiamo 5, pari a 1,7 miliardi di euro di risparmi. Cottarelli ancora a marzo di quest'anno ha ulteriormente esteso non solo con l'efficientamento degli acquisti, degli uffici sovrapposti e così via, ma con le sinergie, e arriva a 2 miliardi e mezzo in 2 anni. Ecco, a furia di non fare quelle riforme lì e di non scontentare chi fa gli acquisti per i carabinieri, chi sceglie nei carabinieri della polizia mezzi diversi e così via, alla fine mancano i soldi e che cosa si fa? Si blocca l'aumento retributivo dei dipendenti pubblici, perché io sono il primo a dire che pagare un poliziotto per quello che rischia così poco è una cosa che mi fa vergogna. Però il problema è quello, facciamo le riforme impopolari o quelle popolari? Ecco, per parlarne, in attesa delle vostre telefonate, c'è un altro delle prime firme, un'altra delle prime firme della stampa, Federico Geremica, grazie e buon pomeriggio per essere con noi. Ciao Oscar, grazie a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Tu come la pensi su questo dilemma che su cui la stampa poi ha insistito, il vostro giornale? Qual è il Renzi che credi più probabile a questo punto? Ma insomma, francamente io credo che la questione vada oltre Renzi, cioè oltre, diciamo, questo governo, lo dico, diciamo, in premessa. E naturalmente capisco e trovo anch'io molto interessante il ragionamento che ha sviluppato l'altro ieri Luca Ricolfi, faccio però fatica a identificare in Nardella, diciamo, la fase 2 del renzismo, insomma, per intenderci, sono molto legati e da escludere che Dario Nardella abbia voluto dire qualcosa in polemica, diciamo. Forse non si aspettava che in contemporanea il premier dicesse quell'altra cosa. Forse non si aspettava questa, come dire, oggettiva giustapposizione, diciamo, delle due tesi. Questo lo dico, diciamo, in premessa. Cioè, il tema di fondo, Oscar, secondo me, richiama una questione molto annosa e che noi che abbiamo purtroppo una certa età, diciamo, conosciamo bene da tempo, e cioè era tornata in auge, diciamo, in ragione di alcune critiche mosse dalla sinistra a Silvio Berlusconi, era tornata in auge, appunto, diciamo, tanti governi di Silvio Berlusconi, e cioè in sostanza se si cerca consenso per governare, quindi fare cose anche dolorose, oppure se, come veniva per esempio rimproverato a Berlusconi, e secondo me l'obiezione è estendibile a Renzi, diciamo, almeno, diciamo, a questa prima fase di governo, se si governa per creare consenso, il che vuol dire tutta un'altra cosa, vuol dire anche atti, diciamo, che si sviluppano alla luce di questa filosofia. Gli 80 euro che sono tanto stati criticati e soprattutto definiti in maniera, secondo me, riduttiva, una mancia elettorale, sono invece, secondo me, una esemplificazione plastica di questo modo di intendere, diciamo, il governo. Cioè si sta al governo, si fa quel che si può fare, ma naturalmente si cerca prima di tutto di poter restare al governo cercando il consenso. Detto questo, poi c'è una forza delle cose per cui Matteo Renzi è stato costretto, è costretto tuttora e credo sarà costretto ancora di più a fare anche cose impopolari, cioè molto impopolari. Beh, la vicenda che tu citavi adesso, quella del blocco, della prosecuzione del blocco degli aumenti di stipendio dei pubblici dipendenti, è una scelta certamente impopolare, cioè che non porta consenso, non è l'unica, diciamo. E ci si può anche interrogare, francamente, considerata la dimensione ormai epocale di questa crisi, quanti siano poi in effetti i margini veri operativi di ogni singolo governo rispetto alla slavina che è venuta giù. A me non meraviglia che, come dire, questo tirar sempre in ballo l'Europa, che da una parte vuol dire effettivamente cercare di scaricare le colpe, diciamo, fuori di casa propria, però d'altra parte, come dire, rivela anche una verità di fondo, cioè che i singoli governi da solo non ce la fanno, basta vedere l'effetto sui mercati, sulle borse, anche sullo spread dell'iniziativa non certo governativa assunta ieri da Draghi. Questo è vero che può funzionare, diciamo, come alibi, ma secondo me funziona soprattutto sul piano psicologico come una sorta, diciamo, di rassegnazione, cioè non ce la posso fare, quindi è inutile che mi accanisco. Cioè noi abbiamo alle spalle due governi, certo non lassisti, cioè quelli venuti prima di quello di Matteo Renzi, cioè quello di Mario Monti in particolare e quello di Enrico Letta, che non hanno fatto scelte così popolari, anzi, pensa solo alla riforma delle pensioni, ma la situazione a me non pare migliorata di un millimetro. Naturalmente si può sostenere che senza quelle riforme la situazione sarebbe ancora peggiore, ma, come dire, diciamo, resta da dimostrare. Quello che voglio dire è che in realtà Renzi, diciamo, è meritevole di ogni critica, naturalmente. Osservo che però fuori dalle questioni dell'economia, dove appunto diciamo c'è questa scuola di pensiero secondo la quale i singoli governi poco possono, insomma fuori dall'economia lui alcune cose le ha fatte, alcuni risultati li ha ottenuti, ora ognuno naturalmente può avere insomma un proprio giudizio su che valore hanno alcune di queste cose, penso per esempio alla riforma del all'avvio della riforma del bicameralismo paritario che non c'entra niente con l'economia ma che però è stata fatta, penso diciamo persino, e c'entra, non è che c'entra poco, alla vicenda Mogherini, diciamo, attorno alla quale c'erano addirittura delle ironie, diciamo, fino a prima dell'estate, diciamo, candidatura, come dire, considerata perdente, addirittura ridicola, e invece, diciamo, alla fine è passata. E penso a iniziative che vanno dalla parziale abolizione delle province, lo smantellamento del CNEL, insomma, come dire, quel che si può fare fuori dal grande e misteriosissimo mondo ed è lontano dai meccanismi economici che sono così difficilmente diciamo scrutabili e governabili, e, insomma questo governo sta provando a farle, è poco e soprattutto credo che non sarà sufficiente a tenerlo lontano da momenti dolorosi come quello di ieri. Adesso Alfano ha rilasciato una dichiarazione diciamo in puro stile democristiano, diciamo giusta, La causa, sbagliati i toni, va bene, allora cambiamo i toni, la causa resta la stessa, sì. La sostanza resta quella, lo possono dire in maniera più educata e sarebbe sempre meglio dire le cose in maniera un po' più istituzionale, insomma. No, ecco, a me la cosa che colpisce, Federico, nella vicenda delle forze dell'ordine, poiché, ripeto, in quel caso siamo pieni di analisi, cioè Giardi fece 300 pagine quasi di analisi, è proprio la stampa oggi, Alessandro Barbera a ricordarlo, gli altri giornali poi mi ha colpito che oggi se ne siano dimenticati, e da Giarda in poi, cioè noi le abbiamo studiate le inefficienze della spesa delle cinque forze dell'ordine, ripeto, non aver fatto quella roba lì negli anni, questa è la mia esperienza di giornalista, è dipeso dal fatto che i singoli presidenti del Consiglio, cioè tre governi da allora, e per il momento anche Renzi, perché le stesse proposte di Cottarelli, anzi ampliate, per il momento sono nel cassetto, derivano dal fatto che i governi non hanno avuto, non voglio dire il coraggio, insomma, non hanno ritenuto opportuno scontentare chi? Scontentare i vertici e lo Stato Maggiore dei Carabinieri, i vertici due anni fa della polizia soprattutto, che da questo punto di vista sono iperconservatori e gelosissimi. Allora, i vertici delle forze dell'ordine, credo io, che agli occhi degli ultimi presidenti del Consiglio siano contati di più che dire a tutti i poliziotti e i carabinieri continuate a perdere, perché si perde nel valore reale, come ovvio, dello stipendio se sta fermo anno dopo anno. Per questo dico, a volte il coraggio, questa è una cosa impopolare, però il problema è che ci voleva più coraggio a scontentare i generali, i capi della polizia, i capi dei servizi, perché anche lì c'è molto da incidere. E fino a questo momento, malgrado la questione fosse stata iperstudiata, era tutto pronto, bastava tradurla in strumenti operativi da due anni e mezzo, ecco che si dice no, i soldi continuiamo a levarli dalle tasche di chi è pagato così poco. E ecco dico, il coraggio e la popolarità, secondo me, derivano anche dal fatto che bisogna a volte prendersela con quelli che il Presidente del Consiglio, in questo hai ragione tu Federico, lui se la prende tanto e giustamente contro i poteri forti di un'Italia spesso asfittica, il capitalismo privato italiano che protesta perché gli levano i sussidi e pretende di far lezione, però all'interno dello Stato a volte i vertici dello Stato, la politica è come se continuasse ad averne paura. Secondo me bisognava dire ai poliziotti e ai carabinieri: signori, noi facciamo i 2,5 miliardi e di lì ricaviamo le risorse, se ce le fate fare bene, la politica è d'accordo su questo, per darvi le cose che è giusto darvi in più. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:51, 58 secondi. Alcuni degli sms che ci avete mandato, senza alcuna pretesa di poterli purtroppo leggere tutti, perché sono tantissimi. C'è chi dice: è vergognoso lo sciopero minacciato dalle forze dell'ordine, queste cose non possono avvenire, in altri paesi sarebbe impensabile. C'è chi dice: Renzi farà delle riforme né popolari né impopolari, purtroppo incomplete, cioè inadeguate alla soluzione del problema Italia, come tutti quelli che l'hanno preceduto, quindi scoramento. C'è chi dice: Renzi dovrebbe dire ai sindacati del pubblico impiego: io vi faccio un rinnovo dei contratti, sì, ma in cambio date anche libertà di licenziare gli stati in esubero come i privati, e questo credo che sia molto difficile che avvenga, anche se io sarei da questo punto di vista molto molto molto d'accordo. Altri che dicono: l'Italia deve essere operata di tumore, questo è Dario che ci scrive, e discute invece del colore del bisturi. Renzi purtroppo se va in questa direzione sbaglia. Tantissimi molto critici, devo dire la verità, nei confronti di Renzi, altri che chiedono quanto guadagna un generale. Ecco, in questo caso si va, siccome sapete c'è una progressione anche lì per anzianità e noi continuiamo ad averne troppi di generali nelle forze armate, si va da un minimo di 3.800 fino a 6.000 rotti euro al mese. È ovvio che stiamo parlando di multipli rispetto ai 1.200-1.300 che prende un poliziotto e un carabiniere. Siamo pur sempre in presenza però di multipli pari a tra i 2, le 3 e non arrivano a 4 volte, quindi non hanno a che vedere con i multipli scandalosi di centinaia di volte che si vedono nel privato. Sentiamo rapidamente come la pensa invece alcuni di coloro che ci hanno telefonato, per esempio Fabrizio. Fabrizio d'Alessandria, prego Fabrizio. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Io ho telefonato perché ho sentito la sua domanda riguardo al coraggio, sì, di fare o meno delle riforme. Io penso che il coraggio non ce l'avranno, perché ci vuole il coraggio politico di fare star male una minoranza dei cittadini che fino ad ora sono stati troppo bene a favore di chi invece è stato ingiustamente meno bene in tutti questi anni, perché non poteva agevolarsi di rendite di posizioni piuttosto che di agevolazioni varie. Ecco, però vede Fabrizio, io ho capito come la pensa, però sulla minoranza non sono d'accordo. Ci sono tantissimi milioni di italiani, naturalmente sbaglio, sono in minoranza, ma a mio giudizio tra coloro che se la passano al di sopra dei mezzi del paese ce ne sono tanti. Cioè, io, come è noto, sono per il ricalcolo delle pensioni retributive, per esempio, rispetto a quelle contributive, perché siccome le pensioni vengono pagate da chi oggi lavora, e chi oggi lavora ha un'enorme difficoltà ad avere un lavoro, ce l'ha per l'80%, si è assunto in questi ultimi anni solo a tempo determinato, io sarei per un principio di giustizia. Lo so che chi ce l'ha retributive agganciate al 90% l'ultima retribuzione era in regola con la legge, però secondo me il fatto che tutti coloro che vengono dopo si sognano quella pensione, andranno in pensione se lavorano in età molto più avanzata e non avranno quella roba, secondo me bisogna riequilibrare. Però se andiamo a vedere sui 23 milioni di pensione e quindi 16 milioni e 7 di pensionati italiani, quelli nel settore privato, 13 milioni e 7 complessivamente sono i pensionati privati che hanno il retributivo, sono 13 milioni e 4, perché ad avere il contributivo sono solo 300.000. La politica, di fronte a stragrande maggioranza di pensionati retributivi che votano, ecco che si ferma e dice: noi non lo rifacciamo il ricalcolo. Ma invece sarebbe giusto farlo in nome delle giovani generazioni e in nome di chi paga quelli che sono, alla legge di oggi, dei regali, anche se al tempo non erano regali. Sentiamo Santino da Roma come la pensa. Santino, prego. Ciao Giannino, buonasera. Sì. Senti Giannino, io sono un artigiano, faccio, sì, il calzolaio, no? Sì. Caro Giannino, il dottor... pronto? Sì, vai avanti, ci sentiamo. Giannino sta facendo le riforme, Renzi, no? Sì. Però che cosa sta facendo? Sta facendo solo una spolverata, sta là. Se devi arare, devi andare giù lì sotto. Se nel 2003 che cosa ha fatto? Ha fatto le riforme strutturali. E infatti la gente non l'ha premiato. E la gente non l'ha premiato. Poi hanno vinto gli altri e un pezzo del suo partito ancora glielo rimprovera. Ed è esattamente il punto, Santino, questo. Perché le riforme Schroeder, l'agenda 2010 germanica, quella l'ha varata nel 2003, ha rimesso in piedi un paese. Però poi gli altri, nell'SPD, un pezzo di SPD, dice: sì, abbiamo pagato un amaro prezzo. E Renzi, secondo me, proprio di fronte a questo punto è. Perché anche nel suo partito, poi risentiremo Federico, ma c'è gente che lo critica. Walter da Modena, tu come la pensi? Mi pare che Walter da Modena non ci sia, o c'è? No, non c'è. Federico, quanto conta levare la testa di nuovo a cui assistiamo nel suo partito di chi dice Renzi sta esagerando? Ma insomma, io credo che sia, diciamo, sia cosa di poco conto, anzi credo, diciamo, che Renzi sperasse, diciamo, che tornassero a parlare ho capito quelli che lui ha sconfitto, perché naturalmente lì ha gioco facile, no? Naturalmente, insomma, certo. Perché, come dire, gli ultimi che possono criticare Renzi sono quelli che lo hanno preceduto. Bravo, credo che le critiche a Renzi debbano essere di tutt'altra natura, di tutt'altra sono provenienza. Completamente d'accordo con te. Io nel 2012, quando D'Alema disse che si faceva un passito alla politica, disse: ci annudiamo il fazzoletto e ce lo tireremo fuori quando ti rifarei avanti. Comunque, grazie a Federico Geremica, appuntamento con me a lunedì, continuate con Radio 24.